E intanto martedì 14 marzo ovviamente 2023 alle ore 21 Ecce Homo, la voce recitante di Corrado Augias, e la stagione teatrale di Tre Teatri per Te è all'Auditorium 1 maggio. Per anticipare questo appuntamento il protagonista Corrado Augias è qui con noi. Buongiorno e benvenuto Augias. Grazie a voi, buongiorno. Allora, già dal titolo Ecce Homo, ricordiamo Ponzio Pilato che presenta il corpo flagellato del Cristo come per placare la sete di sangue di una platea quanto mai esaltata di fronte a tutto ciò. Sarà un percorso che vede il confronto di questa realtà non come ci viene raccontata o non come, insomma, l'attinenza giusta del sacro, ma anche con quella che è un parallelismo storico e sociale dell'epoca. Ho intuito bene, Augias? Perfetto. Può sembrare, ma qualcuno me l'ha anche chiesto, dice: ma come, una storia raccontata mille volte? La nostra idea, la mia idea, è che certo è stata raccontata mille volte, ma sempre, come lei del resto ha accennato, con un riferimento alla divinità, cioè di una creatura divina inviata in un certo giorno, in un certo luogo della Palestina, nel ventre di una giovinetta ebrea, per venire al mondo ed essere ucciso con un destino preciso, tragico, cioè essere ucciso per riscattare il genere umano dal peccato di Adamo. Ecco, questa in due parole, sommarie ma non imprecise, è la figura, il destino di Gesù, secondo la teologia. Io lo racconto in un altro modo, e cioè lo racconto come un uomo, il quale nasce in quel paese, in quell'epoca, e si trova a voler riaffermare, consolidare, accrescere la spiritualità del suo popolo, cioè degli ebrei, più particolarmente dei giudei della regione che si chiama appunto Giudea intorno a Gerusalemme, rinsaldare la loro fede, la loro spiritualità in un momento in cui il suo paese è sotto un doppio dominio, quello degli alti sacerdoti del Tempio per quanto riguarda la parte spirituale, e soprattutto sul potere dominante dell'occupazione romana, essendo la Palestina una provincia imperiale situata com'era ai confini dell'impero, sul trono sedeva in quel momento Tiberio, e dunque in una posizione estremamente complicata dal punto di vista politico, militare, eccetera. Ecco, allora, un uomo che in quelle condizioni sceglie di portare una doppia sfida, sia al potere spirituale degli alti sacerdoti, sia al potere politico-militare dell'autorità di Roma, è un eroe. E noi, io lo racconto come un eroe, il quale sceglie la morte, sa di andare incontro alla morte e lo fa per adempiere la sua missione, quella che si è dato, non per obbedire a un destino stabilito secoli prima dalle scritture. Quante attinenze con la quotidianità, anche a proposito anche delle zone geografiche. Sì, quella è una regione del mondo che fa da cerniera, da confine, da cuscinetto, si sceglie quello che si vuole tra due entità che sono l'Occidente e l'Oriente, l'Europa e l'Asia. È una zona dai tempi di persiani e degli ateniesi, come sappiamo dalle guerre che si sono combattute tanti secoli fa, di equilibri, questo sì che ha un rapporto con l'attualità. Usciamo però, tengo a precisare, dalla storia di Gesù. Il rapporto con l'attualità è che lì si sta consumando un'altra volta, tra Ucraina, Mar Nero, Turchia, Siria, si sta consumando un'altra edizione dell'eterno scontro Oriente-Occidente. E perché, domanda magari banale o immediata, perché nei percorsi storici più attenzione al sacro, massimo rispetto ci mancherebbe, e meno all'aspetto sociopolitico? Beh, perché la narrazione cristiana che ha dominato, oggi in netto declino, ma che hanno dominato il nostro mondo, l'Occidente, per 20 secoli quanti sono, la narrazione cristiana ha imposto la sua visione della figura di Gesù, lo ha avvolto quest'uomo in un mantello, lo ha santificato, divinizzato e nello stesso tempo ne ha limitato l'enorme eroismo umano che io tendo, a me piace più così. Certo, e condivido appieno questa visione. Io intanto la ringrazio per questa anticipazione e soprattutto grazie per l'ottimo lavoro. Le musiche saranno di Valentino Corvino, sarà martedì 14 marzo alle ore 21 all'Auditorium 1 maggio di Crevalcore per la stagione teatrale Tre Teatri per Te. Grazie Corrado Augias. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie. Arrivederla. Arrivederci.